In questi giorni c'è un'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Prima la Commissione di Garanzia ha pubblicato un invito per sospendere lo sciopero per i soli servizi essenziali, mentre lo scorso venerdì ha intimato la revoca dello sciopero generale convocato dai sindacati di base su indizione di non una di meno, minacciando tra l'altro pesanti sanzioni per chi si asterrà dal lavoro in quella giornata. Quindi di fatto lo sciopero generale con copertura sindacale sarà annullato, però questo provvedimento si aggiunge già a quelli che sono gli effetti delle misure adottate nelle regioni a rischio contagio, tra cui l'Emilia-Romagna, perché diciamo che queste misure hanno già interrotto il processo di costruzione dello sciopero femminista, vietando assembramenti, quindi l'impossibilità di convocare assemblee pubbliche nei luoghi di lavoro che sono fondamentali nella costruzione dello sciopero stesso. Inoltre, questo divieto formale si aggiunge a quelle che sono già le conseguenze materiali che le ordinanze regionali stanno avendo sulla vita di quelle donne che proprio il 9 marzo avrebbero scioperato. Quindi abbiamo deciso di annullare le piazze dell'8 e del 9 marzo mattina, ma vogliamo comunque, anche di fronte alla richiesta di numerose lavoratrici, numerose donne che ci stanno contattando, essere parte dello sciopero femminista. Tra l'altro quest'anno c'è una chiamata transnazionale e quindi noi non vogliamo rinunciare a prendere parte a questo sciopero e rilanciamo l'appuntamento del 9 marzo pomeriggio alle ore 18 in piazza 20 settembre. Bisogna però considerare un altro punto, cioè se da una parte la commissione di garanzia vieta di fatto lo sciopero generale, dall'altra parte bisogna calcolare come i decreti sicurezza già prima ponevano delle grosse limitazioni alle manifestazioni politiche. Una cosa che avete sottolineato anche nei vostri comunicati è che questa emergenza sta mettendo in evidenza tutti i problemi del patriarcato, in particolare le conseguenze che ha sulla vita delle donne nello specifico, nel lavoro di cura, nella gestione dei figli. Puoi farci qualche esempio? Molte imprese o alcune autorità richiedono di tornare a quella che è la normalità dell'economia, invece il costo di questa emergenza grava sulle donne. Nell'attuare dei provvedimenti però non è stata posta nessuna attenzione a quelle che sono poi le condizioni materiali di lavoratrici e lavoratori. Infatti pensiamo per esempio a quelle lavoratrici che sono state costrette a rimanere a casa perdendo il salario o ricevendo un salario ridotto, ad esempio le insegnanti precarie o chi è costretto a rimanere a casa per la cura di bambine e bambini o la cura delle persone anziane. Dall'altra parte però si verifica un aumento del lavoro per esempio le lavoratrici sanitarie e le infermiere, oppure le lavoratrici domestiche della cura che sono soprattutto migranti, si assumono poi quello che è il rischio contagio per garantire diciamo l'igiene dei servizi degli ambienti pubblici e privati. Però dall'altra parte è stato sottolineato come lo smart working è la soluzione migliore per qualsiasi caso, anche se sappiamo che per esempio non per tutte la casa è il posto più sicuro, anzi c'è un rischio per l'intensificazione della violenza domestica. Ma non solo questo, vediamo come in questi giorni si rende ancora più evidente quello che è frutto di anni di politica di smantellamento del welfare, della sanità pubblica. Si verifica anche quello che è un razzismo di ritorno sia da parte di autorità sia con aggressioni per strada. Diciamo, al netto di tutte queste considerazioni, ben prima che lo sciopero fosse vietato, ci siamo chieste però come ripensare le forme dello sciopero, sapendo che per esempio l'astensione dal lavoro salariato sarebbe stato un grosso sacrificio per molte persone che già hanno perso parte di salario e dall'altra parte per tutte quelle che per cui è ancora più difficile sganciarsi diciamo dal lavoro di cura. Diciamo che in questi 4 anni di sciopero femminista abbiamo messo in evidenza, nominando e rendendo visibile quello che è il lavoro domestico che non è riconosciuto come tale, e in questa situazione diciamo straordinaria invece vengono a galla tutte le contraddizioni strutturali di questa società, che ricade appunto ancora una volta sul lavoro gratuito delle donne senza un supporto pubblico. Per cui insomma anche questa emergenza aumenta la necessità di battersi, e in particolare ci sono due punti del programma di Non Una di Meno che sottolineate: un welfare universale e il reddito di autodeterminazione. Come dicevo prima, appunto, il peso dell'emergenza si sta scaricando soprattutto delle donne. Se da una parte vengono promosse politiche di welfare aziendale, bisogna considerare che solo il 43% delle donne ha accesso a un lavoro salariato, però il più delle volte precario. E se consideriamo che il lavoro domestico è in gran parte, per circa il 74%, svolto dalle donne, si rende evidente come le misure che ad oggi ci sono, per esempio penso al reddito di cittadinanza, che è una misura parziale, una misura disegnata sulla famiglia e non sulla persona, che quindi aumenta la dipendenza delle donne, è un provvedimento anche razzista perché esclude chi non ha la residenza in Italia. Invece diciamo che in questa situazione, dove si rende palese quello che è l'assenza di welfare, il reddito di autodeterminazione potrebbe essere non solo una rivendicazione politica, ma diciamo un sostegno materiale che ci garantisca poi quella che è l'indipendenza economica, che riconosca tutto il lavoro gratuito che è svolto, ovviamente anche per liberarsi da quella che è poi la divisione sessuale del lavoro. Al momento invece tutto quello che diciamo che viene nascosto è esattamente chi sono i soggetti che pagano questa crisi sanitaria.